24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati. 24 mattino, siamo in diretta. Non sto ridendo, è sempre la tosse che mi prende un po'. Deborah Rosciani, eccoci con Soldi e dintorni. Soldi e dintorni. Eccoci qua. Ce la fai a portare a casa questa stagione radiofonica o sì, ti ricoveriamo prima? Sì, sì, no, no. Vabbè. Tu a farti aprire il microfono dal nostro sì. Peter. E quella è Peter stamattina che Peter perde qualche colpo. Beccato, non è che subito. Siamo sempre solo noi due. Guarda, partiamo bene stamattina. Ti faccio sentire questo pezzetto di un film famosissimo. Senti, senti. $60 al giorno. Proprio un bel business, ok. Di un po', chi l'ha fatto questa puttana? Ah sì, un mio bisnonno. Sì, sì. Fece venire apposta uno scultore dalla Svizzera. Ah. Aspetta, paesà. Qui dici che dallo scultore Bernini. Appunto, siccome veniva da Berna, era piccoletto, chiamavano i Bernini. Sì, ho capito, dimmi un po', paesà, ci vogliono molte staff, cioè molti impiegati per mandare avanti questa fontana. Basta uno io solo. Chiudo l'acqua, chiudo la fontana, piglio i soldi, apro la fontana e tu. Senti, io sono italiano oriundo, ho lasciato l'America definitivamente e mi voglio stabilire in Italia. Ma vado in cerca di un buon business, sa. E perché non ti compri la fontana mia? E tu te la vendi? Eh sì. Un giorno o l'altro mi devo ritirare, capisci? I dolori reumatici, vicino all'acqua, eh? Allora la compro io. Dimmi un po', paesà, quanto costa la fontana? Ma tu pagheresti subito? Certo. Con 10 milioni te la cambio. Ok, paesà, complimenti. Domani vieni al consolato americano e ti faccio trovare il contratto pronto e money, ok. E non mi dai una caparra? E poi naturalmente lo stralcio del film Totò Truffa del 62, Totò che tenta di vendere la Fontana di Trevi, va avanti con questo acquirente, si accordano per mettere nero su bianco una proposta di compromesso per questi 10 milioni di euro. Insomma, perché abbiamo voluto cominciare con una risata per commentare in realtà un fatto che ieri ha fatto ridere ben poco, cioè il nuovo calo pesantissimo delle borse, è il tema che è stamattina su tutti i giornali. Allora, siccome è un po' complicato anche capire il motivo per cui ieri i listini azionari sono caduti pesantemente, non vorremmo intanto rischiare di mandare di traverso la colazione stamattina a tutti quelli che ci ascoltano, però sicuramente a molti investitori, anche italiani, il tema suscita curiosità e qualche necessità di spiegazione in più. Allora io saluto e ringrazio di essere con noi Luca Bagato, trader, specialista sui mercati obbligazionari, consulente per questo settore, consigliere della Borse Italiane e anche amministratore unico di Macro Markets, che è una società di analisi finanziaria indipendenti. Dottor Bagato, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo cominciato con Totò, le è piaciuta un po' per fare un parallelo rispetto a quanto accaduto ieri? Perché il tema è la vendita allo scoperto, vendere qualcosa che non sia. La Germania ha detto stop a questa procedura, che in realtà è del tutto regolare, regolamentata e legittima appunto sui mercati finanziari, però la Germania ieri ha detto no, e ha detto no, non si può più fare su alcune tipologie di strumenti finanziari. Intanto, che cosa ne pensa? Lei fa anche, tra l'altro, il professore universitario, ai suoi studenti che non hanno mai studiato la materia, come spiegherebbe quello che è successo? Sì, è vero, infatti ci troviamo spesso anche in università a trattare di questi argomenti. Ma allora, innanzitutto la vendita allo scoperto, ha a che fare col provvedimento di ieri, è una vendita allo scoperto per quanto riguarda i titoli bancari e in particolar modo obbligazionari. Quando si parla di vendita allo scoperto si parla di qualcosa che effettivamente una persona non ha, quindi l'esempio di Sartre di Totò effettivamente, pur nella sua ironia, ha qualcosa a che fare. Certamente non è che si tratti di una truffa, ecco. Io chiaramente che sono un trader, ad esempio, di un fondo speculativo, posso vendere magari obbligazioni emesse dalla banca italiana, che so, San Paolo Intesa, però per vendere, non a vendere, devo prenderle in prestito. Se si tratta di un titolo obbligazionario, quindi qualcuno deve prestarmi questa obbligazione che poi andrò a vendere sul mercato realizzando un profitto nel momento in cui la restituirò, eventualmente ricomprata a un prezzo più basso. Nel caso invece di un CDS, che era l'argomento forse più delicato di ieri, ci troviamo di fronte a degli strumenti che offrono una copertura, un po' come fosse un'assicurazione, in cui solitamente, appunto si chiama di CDS coperto, quindi non era il caso di ieri, è una protezione di solito rispetto a obbligazioni che ho comprato, quindi compro un'obbligazione di una banca, ad esempio tedesca, come può essere Deutsche Bank, che ha una certa cedola, immaginiamo il 5%, e al tempo stesso mi proteggo rinunciando magari a metà della cedola, quindi 2,5 punti annualmente, quindi rinuncio a questa parte della cedola perché questa componente che io ho eliminato e quindi non mi entrerà nelle mie tasche, in realtà servirà per proteggermi nel caso in cui effettivamente Deutsche Bank dovesse andare in fallimento. Questo è un tipo di protezione che viene in realtà autorizzata e non ha nessun problema di diciamo, regolamentazione. Quello invece che avviene ancora una volta con i fondi speculativi è che vengono comprate protezioni senza avere il titolo sottostante, quindi una protezione pura contro chiaramente la banca. Ecco, quindi la Germania ha detto no a tutto questo. Tra l'altro questo provvedimento è stato precisato, avrà una durata temporanea poi per modo di dire, perché durerà fino al marzo del prossimo anno, ma la cancelliera tedesca ha detto anche che potrebbe durare un po' di più. Volevo ritornare un po' alla situazione italiana, così per risuscitare un po' di interesse per coloro che magari comunque comprensibile avessero capito poco di questi meccanismi, che sono soprattutto ad appannaggio di ovviamente investitori professionali. Se la situazione in Italia potrebbe essere soggetta ad una misura similare, dottor Bagato, perché la Consob, l'autorità che vigila sul mercato, un provvedimento simile l'aveva già preso per il nostro paese nel settembre del 2008, poco dopo lo scoppio della crisi Lehman Brothers. Adesso è stato detto invece in Italia non ce ne sarà bisogno. Lei che cosa ne pensa? Davvero, il provvedimento è stato preso a suo tempo per i titoli azionari, quindi proprio furono vietate le vendite allo scoperto di titoli azionari, quindi vendite in realtà ad esempio di titoli proprio su azionario, quindi magari appunto su San Paolo Intesa, Unicredito, senza avere il titolo, quindi sempre con titoli presi a prestito da altre controparti. In questo momento peraltro l'Italia ha introdotto, con annuncio ieri da parte del governatore della Banca d'Italia Draghi, un meccanismo per cui anche le posizioni obbligazionarie presso le banche che servono e vengono monitorate per il capitale di vigilanza, quindi quello che serve alle banche per dimostrare di essere solide, non saranno più fluttuanti a causa della variazione molto veloce che purtroppo le obbligazioni in questo momento dell'Eurozona hanno subito a causa della crisi greca, e questo chiaramente aiuta comunque le banche ad essere in qualche modo un pochino più solide. Io penso che l'Italia in questo momento sia, come anche la Germania, in una situazione molto più solida rispetto a quella che il mercato ha scontato ieri. Certo è che l'annuncio è avvenuto in maniera un po' repentina e il mercato probabilmente non era preparato. E infatti è stata sollevata anche l'obiezione che ci sarebbe stato bisogno di un coordinamento europeo, almeno per prendere decisioni di questo tipo, invece la Germania pecca a volte un po' di solitudine nell'intraprendere iniziative di questo tipo. Abbiamo un minuto di tempo, Bagato, poi la devo salutare, le chiedo che tipo di previsioni si possono fare per la giornata di oggi, perché ieri abbiamo visto borse in netto calo, euro sull'ottovolante scivolato a 1,21, di nuovo confermando i minimi da 4 anni, per poi risalire a 1,24, quindi fa dei movimenti incredibili, eccezionali nel corso di pochissime ore. Obbligazioni sull'ottovolante, ieri addirittura l'asta dei titoli di Stato tedeschi ha fatto fatica ad essere chiusa in maniera soddisfacente. Oggi sarà un po' più tranquilla la giornata anche dopo le rassicurazioni generali che sono arrivate ieri? Ma io penso di sì, la giornata sarà più tranquilla, soprattutto perché ieri c'è stata una certa stabilità del cambio verso fine giornata che comunque ha rassicurato gli operatori. I mercati hanno funzionato molto bene sia dal lato azionario per quanto riguarda le borse, anche nel gruppo appunto London Stock Exchange, sia anche dal lato obbligazionario, perché parlavo proprio ieri per quanto riguarda MTS ha dato comunque liquidità a titoli obbligazionari tutta la giornata. Sicuramente MTS è il segmento della borsa italiana dove si compra vendono titoli di Stato. Esatto, titoli di Stato obbligazioni, sì. Ci sarà sicuramente più razionalità, gli operatori devono stare un pochino tranquilli in questo periodo, l'annuncio è fatto per stabilizzare il sistema, in realtà il modo con cui sto fatto probabilmente era destabilizzato, ma qui dobbiamo fare un po' di esperienza come europei, siamo ancora un po' un bacino giovane rispetto agli Stati Uniti. Ed è una crisi talmente inedita per portata e violenza che a volte anche i governi si trovano un po' in difficoltà ovviamente a prendere provvedimenti che vorrebbero avere, come dire, tutta la natura di protezione anche per i piccoli investitori, invece qualche volta si commettono degli errori clamorosi. Bagato, grazie, buona giornata, buon lavoro per oggi. Alessandro, oggi a Salvadanaio io mi occupo di sanità low cost, dentisti che offrono delle prestazioni un po' più, come dire, a portata di reddito delle famiglie che magari non se lo possono permettere, poliambulatori. È un tema molto sentito, molto bello, soprattutto sì, di questi tempi. Grazie a Deborah Rosciani, ovviamente alle 12 Salvadanaio, ci vediamo anche domattina. Noi parliamo di tagli, i tagli che la politica ha promesso faremo ai nostri stipendi. Ci taglieremo lo stipendio dal 5% di Calderoli, ora Tremonti pare che abbia portato l'idea, l'ipotesi, a 15% di taglio secco sugli stipendi dei parlamentari. Noi vi chiediamo nel nostro sondaggio, secondo voi ce la faranno? Lo faranno? Manterranno questa promessa in nome di uno stringere la cinghia da parte di tutti? Radio24.it per votare nell'home page, ci trovate bianco o nero, oppure se volete intervenire 800 24 00 24. 24 mattino. Sono le 8:34 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora ecco il nostro sondaggio, parliamo di taglio di stipendi ai politici. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Qualche giorno fa il ministro Calderoli, via il 5%. Ora pare che Tremonti, ieri incontrando Berlusconi, ha detto un taglio secco promesso tra il 10 e il 15% degli stipendi dei parlamentari e dei ministri. Il nostro sondaggio di oggi, che dovete votare su radio24.it, è questo. Secondo voi ci saranno questi tagli? Ce la faranno a mantenere questa promessa? Molti stanno già votando, per ora prevale lo scetticismo. L'85% dice di no. Vorrei subito sottoporre questa percentuale a Sergio Rizzo, che saluto del Corriere della Sera. Buongiorno, Rizzo. Buongiorno a tutti. Dopo la casta celeberrima, hai scritto la cricca, perché la Repubblica Italiana è fondata sul conflitto di interessi, edito da Rizzoli. Allora, ce la faranno questi politici? Questa domanda me l'avranno fatta qualche centinaia di volte, ti confesso. Poi alla fine finisce sempre che in un modo o nell'altro girano intorno, però secondo me il problema va posto in altri termini, vale a dire: ma a cosa serve un taglio di quel tipo? Ma io ho fatto i conti, considerando quello che torna indietro allo Stato sotto forma di tasse, perché non ci dimentichiamo che anche i parlamentari pagano le tasse, tagliare del 5% l'indennità dei deputati e dei senatori porterebbe un risparmio di 4.800.000 euro. Il taglio del 5% dello stipendio dei ministri porterebbe un risparmio di 53.000 euro l'anno. Quindi un gesto simbolico, no? Sì. Anche se questa somma venisse raddoppiata, è di tutta evidenza che siamo proprio alle briciole. Sì, di fronte a una manovra che può arrivare a 28 miliardi. Esatto, no? Quindi diciamo la cosa ha più che altro un significato simbolico, e il fatto è che molti parlamentari mi pare che la stiano prendendo male, cioè la stanno prendendo come se fosse una sorta di, come dire, di punizione o di multa per il fatto che lavorano poco. Avete visto che Fini, no, ha detto che il Parlamento italiano rischia l'inattività perché ormai si riunisce più soltanto il martedì e il mercoledì, e si cominciano a sentire delle voci, insomma, stonate, no? Che non sono proprio in linea con questa idea. Vediamo un po', Sergio, perché ci stanno ascoltando due parlamentari che voglio salutare. Sandro Mazzatorta, senatore della Lega Nord, buongiorno. Buongiorno, e anche buongiorno sindaco di Chiari. E Francesco Nucara, che è segretario del Partito Repubblicano Italiano. Buongiorno, onorevole Nucara. Buongiorno a lei. Buongiorno. Eletto nel Popolo della Libertà. Allora, Mazzatorta, voi forse non storcete il naso perché il ministro Calderoli ha chiesto, è stato il primo a dire via il 5%. Però la critica che si è fatta anche alla Lega è questa: ma come? Tagliamo il 5%, che abbiamo visto sono bruscolini, va bene, valore simbolico, eccetera, e poi per esempio difendete le province. Ah, guardi, innanzitutto segnale che ha voluto dare il ministro Calderoli e il ministro Bossi è un segnale di serietà che questa classe dirigente politica vuole cercare di dare ai propri cittadini, anche per riaprire un canale di dialogo con i cittadini e cercare anche di sfatare alcuni luoghi comuni. Prima si è parlato di un Parlamento che lavora poco, io sarò un'eccezione, noi saremo un'eccezione, ma noi arriviamo lunedì sera. Al giovedì sera siamo ancora qua a analizzare i provvedimenti, a preparare emendamenti, a studiarci i provvedimenti. Il lavoro non è solo il lavoro d'aula, è anche il lavoro di commissione. Sì. Certamente questo indirizzo di provvedere ad un taglio dell'indennità parlamentare ha un significato simbolico, certamente non risolve i problemi, ma cerca di far capire che questa classe politica vuole far parte, diciamo, di un movimento che tende a ridurre drasticamente i costi di una burocrazia che non è solo quella dei politici, ma, come è stato dimostrato anche da molti giornali in questi giorni, delle vere caste, che sono le alte burocrazie ministeriali, centrali e locali, e allora, che guadagnano ben più di un parlamentare. Però torno all'obiezione questa: perché non le province? Insomma, invece le province, che molti si dice sono enti inutili, potrebbero essere tolte con un risparmio maggiore, la Lega le difende. Guardi, io sono un sindaco, l'ha ricordato prima, le province hanno funzioni essenziali, gestiscono una rete viaria essenziale per tutti i territori, gestiscono funzioni in materia ambientale importantissime, in tema di cave, in tema di rete idrica, in tema di servizi essenziali per la cittadinanza. Spostiamo le competenze. Dovranno essere gestiti da altri se eliminiamo le province. Va bene. Bisogna metterci d'accordo. Se poi questi servizi vengono scaricati sui comuni senza poi, come dire, dare ai comuni le risorse necessarie, è evidente che il sistema salta. Quindi non è questo il problema reale, il problema è di trovare un nuovo assetto di questo Stato. Noi abbiamo fatto una proposta ormai da 20 anni, che è quella di dare un assetto federale a questo Stato e soprattutto quello di selezionare una classe dirigente del futuro che sia più responsabile e più preparata. Quindi le province, anche che la Lega nel 2005 aveva proposto la riduzione del numero dei parlamentari con la riforma della devolution, bocciata però da un referendum nel 2006. Anche quello non si è mai avuto. Allora, forse le resistenze, Sergio Rizzo, le ha avute un po', per esempio, Nucara. Nucara che è qui. Nucara, lei ha detto, ma che è una proposta alla Beppe Grillo questa del taglio? Perché? Ma è per quello che ha detto il dottore Rizzo. Io ho presentato un disegno di legge per l'abolizione delle province, ha detto che il taglio del 5%, ma tagliassero il 10%, il 20%, tagliassero lo stipendio ai parlamentari e lasciassero l'indennità soltanto, non risolveremmo il problema. Bisogna tagliare le province. La Lega ha un problema, ecco perché non vuole l'abolizione delle province, ha il problema della provincia di Varese, quindi il Parlamento e il Governo non abolisce le province, malgrado sia nel programma del PDL, perché c'è la provincia di Varese. E che c'ha la provincia di Varese? La mia proposta provocatoria è facciamo Varese provincia autonoma, così avremo la Lega favorevole all'abolizione delle province. Ma che problema c'ha con la provincia di Varese? La provincia dei Bossi. Ah, perché la provincia di Bossi? Allora, quando il collega parlamentare della Lega dice ma perché tagliamo le province, le cave, il collega della Lega forse se non avessimo avuto province adeguate non avremmo avuto il disastro nella cava di Caravaggio, voluta dalla regione Lombardia e dalle province. Allora il problema è diverso, abbiamo 1000 parlamentari, 1116 consiglieri regionali che prendono il triplo di quanto prende un parlamentare, quasi 4000 consiglieri provinciali, più di 200000 consiglieri comunali, 170 comunità montane. E volete toccare il 5% dei parlamentari? Ma non esiste nel risultato. Può essere moralmente giusto perché la gente sta male, deve vivere con la pensione. Però se il risultato è pareggiare i conti, fare una manovra, lo sa nelle comunità, per esempio nei parchi. I parchi sono i parchi nazionali. Poi abbiamo il consiglio di amministrazione del parco, la comunità del parco e la comunità dei sindaci del parco. Ma questo sì, però io non vorrei, e vorrei in questo Sergio Rizzo, che è vero, sono bruscolini, sono le briciole se tagliamo il 5-10% o anche il 15% degli stipendi, che poi non si capisce se lo stipendio secco quello con le indennità, quindi se 5.000 euro, se la percentuale va sui 5.000 euro rotti oppure sui 14.000 euro, ma al di là di questo, però non vorrei che con questo dire c'è anche dell'altro, si va sul solito benaltrismo e poi non si fa niente, insomma. No, vabbè, ma insomma, io dico, io mi sono limitato a sottolineare l'esiguità del risparmio per dire che nel bilancio dello Stato c'è talmente tanto grasso che hai voglia a tagliare. Giustamente è stato ricordato il caso delle province, ma volevo dire una cosa, il senatore Mazzatorta mi ha involontariamente confermato quello che si dice da tempo sul Parlamento, che ha detto anche Fini, perché lui ha detto noi arriviamo lunedì sera e giovedì sera siamo ancora qui. Quindi vuol dire che si lavora il martedì, mercoledì e giovedì, perché poi se il giovedì sera si è ancora lì vuol dire che il venerdì mattina poi si riparte, e che in effetti sono 3 giorni su 5 lavorativi e su 7 complessivi della settimana. Ma visto che l'accusa era che fosse addirittura meno, almeno no, questi 3 giorni. Se si lavora soltanto il martedì e mercoledì, in effetti il Senato, io ho fatto un conto delle sedute che ci sono state dal 1° di gennaio di quest'anno, e non ha mai lavorato l'aula né di lunedì né di venerdì, quindi un problema esiste oggettivamente. La seconda cosa, il taglio del numero dei parlamentari, quello si può fare anche senza una legge costituzionale, non bisogna tirare in ballo ogni volta la riforma della Costituzione, perché basta una legge ordinaria per tagliare il numero dei parlamentari. All'inizio dell'epoca repubblicana, della prima repubblica, i parlamentari infatti non erano 630, ma erano 574. Poi piano piano, no, il loro numero è aumentato. Quindi volendo certe cose si possono fare anche senza rimandarle alle grandi riforme per risparmiare. Quindi voglio dire, ci vorrebbe soltanto un po' di buona volontà e soprattutto un po' di, come dire, di logica. Cioè, le province sono in molti casi una sovrapposizione delle regioni, e chi dice ma tanto poi le competenze dovrebbero essere spostate ad altri enti, probabilmente ha anche ragione, ma c'è il costo dei palazzi, della burocrazia, ma l'accorpamento comunque porta qualche risparmio, no? Questo lo dimostrano anche le iniziative governative. Cioè, se il Tesoro ha deciso di sopprimere le direzioni provinciali del Tesoro, no, le famose 100 e quante sono, è perché si ottiene un risparmio. Quindi, diciamo, da questo punto di vista le obiezioni mi sembrano un po' deboli. Poi non lo so, dopo il traffico vediamo se questa idea della provincia autonoma di Varese, che secondo l'onorevole Lucara risolverebbe il problema provocatoriamente della difesa delle province da parte della Lega, piacerà al senatore Mazzatorta. Dopo il traffico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, i politici promettono: ci tagliamo lo stipendio, chissà quanto, ce la faranno? Secondo voi, promessa che verrà mantenuta? Sempre l'86% dice di no. Sentiamo che cosa ne pensa qualche ascoltatore all'800240024. Francesco Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Mi sente? Benissimo. Sale. Io in tutta questa querelle del taglio degli stipendi ai politici ho una posizione forse un po' particolare. Io non sono d'accordo fondamentalmente su questa operazione, perché la ritengo un'operazione di macchiaggio politico, è un'operazione che serve bene a poco. Secondo me è una scelta etica, però è una scelta etica fino a se stessa. Cioè, più che non essere d'accordo col taglio, dice facciamolo anche, però non è una cosa un po' demagogica, populista, se vuole. Ma sì, la scelta etica di una classe politica è operare per garantire una vita serena e dignitosa ai propri cittadini e rispettare il mandato che noi gli diamo, non certo, diciamo, tagliarsi per populismo una minima parte dei propri introiti. Anche perché quello che penso che sia di nocumento alla nostra vita, intesa come cittadini, non è certo quello, ma è la cricca, sono quegli affari sottobosco, quello sperpero. Le faccio due esempi. Sì. Quando io in un paese faccio una rotonda e mi costa 10.000 euro e nel paese a fianco, a qualche chilometro, la stessa rotonda me ne costa 20.000, c'è qualcosa che non va. Che non va. Va bene, grazie Francesco. È la cricca il problema. Vado a Vicenza da Barbara. Buongiorno. Sì, buongiorno, buona giornata. E senta, io volevo esprimere il mio parere sulla la diminuzione che si vogliono fare i parlamentari. Io sono anche convinta che sulla carta lo faranno per dare un po' un segnale e che servirà a poco al paese. Sono però convinta che i soldi se li faranno saltare fuori da qualche altra parte. Mentre invece se facessero qualcosa di concreto, tipo il taglio delle auto blu, che sono un'esagerazione rispetto a tutto il mondo. Ma se non sappiamo, Barbara, neanche quante sono, dal 91 ci diceva il Sole 24 Ore che stanno cercando di contarle e non sappiamo neanche, non sappiamo quante sono. Come facciamo a te? Adesso Brunetta ha detto voglio sapere quante sono, e che sarebbe ogni già un buon passo. Sui giornali c'è scritto 600, vabbè, sono cifre. Diciamo quello, no, le auto blu, ci sono le province, ci sono tutti le come si può dire, i pranzi che fanno là un euro, i tagli di capelli, le rotonde, gli spray. Sa che ieri ci diceva il giornale è stata inaugurata la nuova come dire terrazza sulla galleria Alberto Sordi sopra i ministri, si pranza per i dipendenti di Palazzo Chigi a 3 euro, credo, 3 sono euro. Un'elettrice di centro destra, io leggo Libero, leggo il giornale, ascolto la radio 24, giornale, e sono abbastanza informata pur essendo giovane, sono anche proprio arrabbiata. Perché dico, ma abbiamo bisogno di 1.000 parlamentari per governare male un paese? Riduciamoli, altri... vedi? No, lei dice riduciamoli. Allora, senatore Mazzatorta, torno da lei. Ha sentito Nucara dire, il problema sono le province. Facciamo una bella provincia autonoma a Varese. Lei è di Brescia, quindi non magari... Guardi, Se ci danno lo status del Trentino Alto Adige, lo prendiamo subito questa proposta e la trasformiamo subito in realtà, non solo per Varese. Perché siamo partiti dal federalismo, stiamo arrivando... Al di là della battuta, ci sono province come la provincia di Brescia che ha 1.200.000 abitanti, Bergamo è sopra il milione, Varese sugli 850.000 abitanti. Poi ci sono le province da cui viene Nucara, di Isernia con 89.000 abitanti, di Enna con 177.000 abitanti, Nuoro 164.000 abitanti. Quindi ci sono province inutili perché con 89.000 abitanti si può tranquillamente eliminare la provincia, o con 160.000 abitanti si può tranquillamente eliminare la provincia. Ci sono province che superano il milione di abitanti che oggettivamente è difficile. Il problema è che non se ne elimina una, se ne fanno di nuove, no? Come quella in Sardegna, che da 4-8. Questo mandato parlamentare non verrà istituita nessuna nuova provincia. Ci mancherebbe, voglio dire. Se Nucara è d'accordo, eliminiamo la provincia di Isernia, eliminiamo la provincia di Nuoro, di Enna e di tante altre province che hanno delle dimensioni ridicole da città. Ma Nucara le vorrebbe eliminare tutte, quindi sarà d'accordo, sì, insomma, Nucara su questo. Partiamo da quelle del sud, di alcune regioni del sud che non hanno nessun senso dal punto di vista proprio il sud. Partiamo dal sud, Nucara. Sono parlamentare della nazione, quindi parto dal sud e dal nord, parto dappertutto. E voglio dire al collega della Lega, al collega senatore, che il ministro Calderoli, durante la discussione sulla legge che istituiva le aree metropolitane, ha dato il suo assenso a un ordine del giorno presentato da me per l'abolizione delle province in quel disegno di legge, e lui ha risposto che accettava l'ordine del giorno e cominciava ad abolire le province inutili. Dopo un anno io non so quali sono queste province inutili, se sono Isernia, Reggio Calabria, Palermo, Catanzaro, tutte le province che ritiene. Cominciamo ad abolirle, ma aboliamole tutte perché non servono. Io sono stato eletto nel PDL, ma sono, come dire, un vecchio repubblicano e sono nel gruppo misto per rappresentare il mio partito. Siccome questo l'ha detto Ugo La Malfa nel 1970, abbiamo istituito le regioni, aboliamo le province e passiamo le competenze alle regioni, invece di duplicare competenze sull'ambiente. Le competenze sull'ambiente sono delle regioni, delle province, dei comuni. C'è una duplicazione di cose, quindi la provincia c'ha la sua polizia ambientale, la regione c'ha il suo organismo, il suo assessorato di controllo, quindi c'è una sommatoria di cose che non stanno bene. Bisogna riformare lo Stato, abbiamo 8.700 comuni. Cioè in Calabria anche questo è l'altro grande tema, cioè accorpare per esempio i comuni piccolini, almeno questo potrebbe portare. Ci sono tante cose. Sentiamo Giacomo da Milano, buongiorno, dice? Dica. Buongiorno, senta, io due cose rapidissime. La prima, sono sconvolto perché saranno 10 anni che sento tutte queste persone che parlano e apparentemente sono d'accordo su tutto, la loro riduzione del numero dei parlamentari, delle province. Solo 10 lei, anche di più, anche ma più sì, di 10 esatto, anni. Ma io ho una bambina di 6 anni, non vedo cosa fa con i suoi amici. Quelli si mettono intorno a un tavolo e dicono oggi giochiamo alle Winx, no? Oggi giochiamo ai Pokémon, e in 5 minuti sono tutti d'accordo, lo fanno. Anzi, di solito vale anche il principio della maggioranza. Questi qua non riescono ad accordarsi su niente. La seconda cosa, molto rapida, per favore un minimo di rispetto per le persone che lavorano. Cioè, io non ho niente in contrario sul fatto che i parlamentari guadagnino tanto, però io faccio il medico ospedaliero, sono un rianimatore, lavoro 50-60 ore a settimana, sono pagato per 36, non mi pagano gli straordinari, mi cancellano le ferie, lavoro da lunedì mattina alla domenica notte. Quindi questi qui che prendono l'aereo gratis, vanno a Roma, lavorano da lunedì sera al giovedì sera, almeno non vengano a dire che questa qui è la dimostrazione del fatto che lavorano. Va bene, Giacomo. No, lo sfogo è capibilissimo. Io un minuto, devo fare una domanda. Onorevole Nucara, posso fare una domanda che è fuori dal contesto? Onorevole Nucara vive in via del Fagutale, in quel palazzo. Esattamente. È quello della famosa casa dell'ex ministro Scajola. L'ha più incrociato? Qualche volta, perché io vengo da una civiltà contadina, quindi mi alzo prestissimo la mattina quando i parlamentari, i miei colleghi in genere dormono, e mi ritiro presto la sera. L'ha più incrociato di questi giorni, cioè dopo la bufera? No, non si è più visto. Ma credo proprio che non sia, credo che sia Imperia. Mi capita di vedere. E se n'è più parlato, insomma, tra condomini, dice Lori del Santo. No, assolutamente. Tra i condomini, per fortuna, tranne qualcuno, ma sono persone serie che ne lasciano le cose, per come chiarirà Scajola quando sarà il momento. No, perché ha visto, sono venuti con Robin Hood finti a fare. Sì, questo sì. Guardi, io dicevo che una volta giravano le spalle a casa mia e fotografavano il Colosseo. Adesso i turisti girano le spalle al Colosseo e fotografano casa mia, cioè il palazzo, diciamo. È diventato il monumento più importante dei due, insomma. La ringrazio, onorevole Nucara, così come il senatore Sandro Mazzatorta e Sergio Rizzo, del quale voglio ricordare La Cricca, edito da Rizzoli. E grazie a tutti voi, Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia. Do la linea a Oscar Giannino. Roma e Venezia alle Olimpiadi, anche lì un leghista si è alzato. Roma ladrona, ha detto quando il CONI ha deciso che le Olimpiadi andranno come candidatura italiana a Roma. Tra l'altro il leghista Leoni sarà anche ospite di Oscar Giannino. E allora, a domani.